Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Agonizzante in un letto. Fra molti anni da adesso. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Avete sentito che slancio epico, eroico, Mel Gibson alias William Wallace, cioè l'eroe dell'indipendenza scozzese a fine 1200, praticamente guidò tutta la rivolta, la famosa guerra d'indipendenza della Scozia contro la Gran Bretagna, e da lì, insomma, anche prima di allora, tutta una serie di guerre, di indipendenza, di rivoluzioni, di rapporti difficili tra la Scozia e la Gran Bretagna. Questo per introdurvi un argomento centrale di questa sera, che è appunto il referendum che si è votato oggi in Scozia per decidere se separarsi o no dalla Gran Bretagna. Naturalmente poi un fatto, risultato, soprattutto se il risultato fosse favorevole all'indipendenza, che avrebbe un sacco di ripercussioni non soltanto sulla Gran Bretagna ma in Europa e poi anche nel resto del mondo. Per esempio gli Stati Uniti guardano con molta preoccupazione una possibile divisione, che è il principale partner poi la Gran Bretagna degli Stati Uniti. Staremo a vedere, perché poi ci collegheremo direttamente con la Gran Bretagna. Ci sono tanti temi questa sera, ci sarà il presidente del PD Orfini anche per continuare a discutere di questa faccenda e dell'articolo 18 della riforma del lavoro e soprattutto di queste divisioni, questi malesseri che stanno creando all'interno del PD. Però adesso partiamo con le notizie principali. ISIS, ok del Pentagono al piano per i raid sulla Siria. E poi Scozia, il paese alle urne, l'Europa teme il contagio, un arresto intanto in un seggio per aggressione. Riforma del lavoro, primo via libera al Jobs Act in commissione, Forza Italia si astiene, il PD dice sì, ma si spacca. Crisi, il Fondo Monetario Internazionale dice che l'agenda di Renzi è ambiziosa, ma bisogna intervenire sulle pensioni, allarme per il debito. Expo, dimissioni a metà per Acerbo, che resta responsabile del padiglione Italia. Il padre di Renzi indagato per bancarotta fraudolenta. Indagine a Genova sulla distribuzione di giornali, lui commenta: sono tranquillo. E poi per il calcio, il debutto in Europa League di Inter, Napoli, Fiorentina e Torino. Napoli e Fiorentina che giocheranno, praticamente stanno cominciando a giocare adesso, mentre l'Inter ha battuto il Dnipro 0-1 e invece Torino ha pareggiato col Brugge 0-0. E cominciamo allora a approfondire le notizie. Partiamo da una notizia che è arrivata in serata dagli Stati Uniti con il capo del Pentagono, Chuck Hagel, che ha detto al Congresso americano di aver approvato un piano per colpire con raid aerei obiettivi dello Stato Islamico in Siria, il cosiddetto ISIS. Ora si attende l'approvazione del presidente americano Barack Obama, quindi finora sulla Siria si era deciso di non intervenire più di tanto, da tanto tempo, no? Che va avanti questa praticamente guerra civile, adesso manca solo l'approvazione di Barack Obama per i raid sulla Siria. E restiamo sulle notizie dall'estero. Vi dicevo quel referendum in Scozia che sta tenendo la Gran Bretagna e l'Europa e non solo col fiato sospeso. Leonardo Maisano, per il momento si continua a votare, mi pare alle 23 si chiudono o si comincia lo spoglio nelle... Sì, esattamente alle 23 ora italiana, che sono 22 qua, chiudono i seggi, inizia lo spoglio, alle 2 incominceranno ad arrivare i risultati dai collegi più marginali e poi alle 6-7 del mattino si presume che arriverà il risultato finale. Leonardo, adesso ci sentiamo così un po' giusto per avere un primo approccio su quello che sta avvenendo, poi ci risentiamo meglio tra mezz'ora e racconti se è successo qualcosa di nuovo, ma i sondaggi davano fino a poco fa praticamente quasi parità con una leggera maggioranza dei contrari all'indipendenza. Adesso dagli exit poll, ci sono già exit poll immagino... No, non ce ne saranno. Ah, no? Ci sarà lo spoglio solo diretto del conteggio autentico, insomma, il conteggio vero, senza neanche le proiezioni. Per cui, come dire, si andrà nella notte nell'assoluta incertezza, o perlomeno su due uniche relative certezze. Uno, il fatto che l'ultimo sondaggio di oggi dà il 53% al no. Secondo, che i mercati danno per scontato che vincerà il no. Oggi la sterlina è risalita. Mm-mm. e questa è un'indicazione forte, anche se molto rischiosa, perché è un testa a testa. Poi io immagino, Leonardo Maisano, avrei modo di sentire le persone che vanno a votare, il clima, le opinioni della gente che si muove intorno ai seggi, anche insomma nelle città. Ci risentiamo quindi tra mezz'ora, ci racconti un po' che opinioni esprimono, e magari ricapitoliamo anche brevemente un po' i rapporti tra Gran Bretagna e Scozia, ma questo più tardi. Grazie Leonardo Maisano, intanto a dopo. A dopo. Ciao Leonardo. E come diceva infatti Maisano, borse condizionate oggi dalla Scozia, ma anche dall'annuncio della Banca Centrale Europea dell'asta filtro le operazioni mirate al finanziamento delle banche a lungo termine, nei quali sono stati assegnati 82,6 miliardi sotto le attese di 100 miliardi. Piazza Affari ha chiuso sottotono con un più 0,08%, in attesa dell'esito del referendum per la secessione scozzese. Invece Parigi e Londra sono avanzate di circa mezzo punto percentuale. Comunque si diceva che l'Inghilterra resta col fiato sospeso, anche perché sono alti i costi qualunque sarà l'esito. Comunque andrà, Londra pagherà il conto per il referendum scozzese. Non sarà una consultazione indolore, anche se è difficile quantificarne a priori le ricadute economiche. Partiamo da un assunto. Il PIL di Edimburgo è pari a circa 130 miliardi di sterline, poco meno del 10% di quello generale britannico. Pro capite 26.000 sterline a testa, 4.000 in più rispetto alla media britannica, che ne fanno la terza regione più ricca. Uno scarto figlio della ricchezza generata dalla produzione petrolifera. Se la escludessimo, gli scozzesi avrebbero lo stesso PIL pro capite del resto del paese. Proprio le riserve di gas e petrolio del mare del nord, in caso di secessione, rappresenterebbero una ferita importante per l'economia inglese. La dipendenza di Londra nell'importazione di combustibili fossili passerebbe al 95%. A sud del Vallo di Adriano schizzerebbero i prezzi energetici. Questo influenzerebbe negativamente la sterlina, già indebolitasi coi sondaggi degli ultimi giorni, con ricadute a catena sulla bilancia commerciale e sull'inflazione. Ancora peggiore potrebbe essere però il contraccolpo sulle attività finanziarie. La scorsa settimana oltre 16 miliardi di sterline hanno lasciato la City e la separazione potrebbe creare ulteriori turbolenze. Pure il no, paradossalmente, avrebbe però dei costi che Westminster deve considerare. I tre maggiori leader politici britannici si sono impegnati a devolvere ulteriori poteri al Parlamento scozzese e a fare maggiori concessioni in materia fiscale a Edimburgo, che avrebbe anche la parola finale sul budget sanitario. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete sentito? Intanto già arrivano dei vostri messaggi al 349-238-6666, poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Miki: ma anche se non ci fosse il sì, sarà difficile ignorare il 48-49% di un popolo che non ne vuole sapere di stare con un altro. E quando lo faranno in Veneto? Sapete che c'è anche la questione Veneto, c'era stato un referendum non ufficiale in realtà. E poi comunque, dicevo, l'Europa teme un po' l'effetto contagio, c'è per esempio anche in ballo la Catalogna, in Spagna. Comunque adesso passiamo all'Italia, con il via libera al Jobs Act in commissione. Nonostante il malessere nel PD, passa la riforma dell'articolo 18. Da Orfini a Bersani sono arrivate comunque richieste di correzione. Il Jobs Act supera il primo scoglio parlamentare. La delega è stata approvata infatti dalla Commissione Lavoro del Senato e la prossima settimana sarà in aula a Palazzo Madama. Sia il testo emendato dal governo, dagli 8 senatori del PD, astenuti quelli di Forza Italia, hanno abbandonato i lavori SEL e 5 Stelle. Restano tuttavia i mal di pancia nel Partito Democratico. Servono correzioni importanti al testo, spiega il presidente Orfini. Di intenzioni surreali del governo parla Bersani, così Fassina. Chi vuole abolire l'articolo 18 vuole rendere i lavoratori più ricattabili e abbassare le retribuzioni, questo è l'obiettivo vero. La delega sul lavoro è in corso di perfezionamento, è giusto che il PD si ritrovi a discutere e definisca la propria posizione, replica il vice segretario Guerini. Sull'articolo 18 il ministro del lavoro Poletti intanto spiega: non è mai stata in discussione la questione del reintegro per il licenziamento discriminatorio. Sacconi, nuovo centrodestra, aggiunge: il lavoratore avrà sempre il diritto ad una tutela nel caso di licenziamento, ma quella tutela deve diventare monetaria. Preoccupato il sindacato, con Bonanni CISL che annuncia una mobilitazione unitaria con CGIL UIL a difesa dell'articolo 18 per rispondere alla sordità del governo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi vi ricordo appunto che uno di quelli che più hanno criticato, anche se con una certa moderazione, nella sinistra del PD, cioè il presidente Orfini, sarà poi tra poco ospite qui a Effetto Notte. Intanto è arrivata questa notizia che il vertice, il summit dell'Unione Europea sul lavoro si terrà l'8 ottobre a Milano, che era stato un po' un mistero ieri, non si capiva, prima era stato smentito, poi rimandato, poi non si capiva la data, adesso sarà l'8 ottobre a Milano questa conferenza internazionale sul lavoro. Intanto anche il Fondo Monetario segretario internazionale, definendo ambiziosa l'agenda di Renzi, ha spronato oggi l'Italia a realizzare le riforme, apprezzando gli interventi sul lavoro. Secondo l'FMI, l'economia italiana si contrarrà anche nel 2014, con il prodotto interno lordo che calerà quest'anno dello 0,1% e tornerà a crescere nel 2015 con un più 1,1%. Intanto prosegue lo stallo ad oltranza in Parlamento per le votazioni per la consulta, il CSM, proprio ancora un nulla di fatto. Il numero 13 non porta fortuna a Montecitorio ed è ancora fumata nera per la consulta, malgrado l'apertura di sel, la disponibilità della Lega e il ticket PD Forza Italia non passa, non ce la fanno né Luciano Violante, fermo a 542 preferenze, né Donato Bruno, 547, ne occorrono 570. Tutto rimandato quindi a martedì prossimo, ma sono molti i malumori nel PD e non solo. Pippo Civati. C'è molto malessere perché comunque di voti ne mancano tanti, è inutile cercare una singola componente perché sono troppi quelli che mancano, ma vedo che ci sono molte malizie che però insomma mi sembrano lasciare il tempo che trovano, piuttosto c'è da capire se settimana prossima passa, se no è un vero capolavoro. Il Movimento 5 Stelle rimane fermo al no. Luigi Di Maio. Abbiamo dato scheda bianca e loro in risposta si sono incontrati a Palazzo Chigi. La nostra disponibilità l'abbiamo data, adesso la pazienza è finita. E si apre un altro fronte all'interno dei democratici, il no della minoranza PD sull'accelerazione all'Italicum. Un mini vertice qui alla Camera tra Bersani e Cuperlo è per far viaggiare le riforme insieme, così Alfredo Dattorre. E a me sembrerebbe più giusto, più saggio utilizzare le prossime settimane sui temi economici. A quel punto passare al tema riforme, mi sembrerebbe una via molto molto più saggia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora sulla cronaca, a Milano per l'ultimo indagato di Expo sono arrivate dimissioni parziali dagli incarichi. Quello che ho fatto stamattina è chiedere a Cerro di fare un passo indietro rispetto al ruolo come mio delegato commissario. A parlare Giuseppe Sala, commissario unico di Expo 2015. In conferenza stampa spiega che Antonio Cerbo, indagato per corruzione turbativa d'asta in relazione al progetto Vie d'Acqua, si è dimesso dall'incarico di commissario delegato di Expo, restando però in carica come responsabile unico per il Padiglione Italia. Una decisione, spiega Sala, più di convenienza che d'obbligo, provvisoria, dovuta alle emergenze del momento. In soldoni, la figura di Acerbo in relazione al Padiglione Italia rimane per ora insostituibile. Senza di lui, da sempre responsabile unico, l'edificio più importante del sito, quello che rappresenterà il paese, la manifestazione, appare a rischio in quella che è già una corsa contro il tempo. Certo è, ha dichiarato Giuseppe Sala, che se Acerbo in futuro ricevesse provvedimenti cautelari, il passo indietro in questo caso sarebbe d'obbligo. Dopo le dimissioni parziali, restano ora da sciogliere molti altri nodi: il destino delle vie d'acqua, il cui appalto non è stato commissariato ma i cui cantieri sono in grave ritardo, e anche quello del Padiglione Italia, con la gara sull'albero della vita ancora non bandita. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo dai titoli, c'è un indagato eccellente anche a Genova, si tratta del padre di Matteo Renzi. Sul registro degli indagati della Procura di Genova, l'iscrizione del nome di Tiziano Renzi risale alla primavera scorsa. Ora, al padre del Presidente del Consiglio, la Polizia Giudiziaria ha notificato l'informazione di garanzia e il contestuale avviso di prosecuzione delle indagini. L'accusa contestata dal procuratore aggiunto Nicola Piacente e dal sostituto Marco Airoldi è bancarotta fraudolenta. L'inchiesta ha preso il via dopo il fallimento di una società di distribuzione di giornali, la CIL Post, avvenuta nel marzo 2013, società della quale Tiziano Renzi era stato titolare insieme ad altri due soci, prima che venisse ceduta ad un imprenditore genovese che ne aveva trasferito la sede da Rignano sull'Arno al capoluogo ligure. In passato, tra il 1999 e il 2004, la società risultò intestata allo stesso Matteo Renzi, al quale la CIL Post avrebbe versato contributi previdenziali figurativi, e alle sorelle. Al vaglio dei PM anche l'attività di una società satellite coinvolta indirettamente nel fallimento. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Ed è tempo per chiudere questa prima parte di Effetto Notte di aggiornarci con Giovanni Capuano sulle partite di oggi. C'è l'Europa League, ieri ci siamo sentiti con la Champions, Giovanni, e stasera l'Europa League. Stasera tra l'altro programma ricchissimo perché sono quattro le italiane, due hanno già giocato le 19, gara che si è chiusa da circa un quarto d'ora. C'è la bella notizia della vittoria dell'Inter in Ucraina, si giocava a Kiev anche se in realtà l'Inter giocava contro la Dnipro. L'Inter ha vinto 1-0, decisivo un gol di D'Ambrosio a 20 minuti dalla conclusione. È stata una buona Inter che ha un po' sofferto all'inizio, è andata meglio nella ripresa, poi il Dnipro si è trovata in 10 per un'espulsione e dopo 4 minuti è arrivato il gol di D'Ambrosio. Inter che in testa al suo girone. Lione ha fatto 0-0 invece il Torino, che tornava in Europa dopo 20 anni, 0-0 in Belgio contro il Bruges, e deve ringraziare il portiere, un belga tra l'altro, François Gillet, che è stato decisivo in almeno 3 occasioni. Diciamo che è andata bene considerato la mole di occasioni create dal Bruges. Stanno giocando Napoli e Fiorentina, siamo intorno al 13° minuto del primo tempo, entrambe le partite sono sullo 0-0. La bella notizia è che il Napoli non fa turnover, ha dentro tutti i suoi titolari per cercare di uscire dalla crisi. Fiorentina anche con davanti Cuadrado e Gomez, che sono i due giocatori più importanti, però in avvio la Fiorentina ha un po' rischiato, mentre il Napoli sta cercando di mettere pressione allo Sparta Praga. Fiorentina Ginghamp 0-0, Napoli Sparta Praga 0-0, siamo da poco oltre il 13° minuto. Quindi dopo anche con Giovanni Capuano, dopo anche con voi, adesso c'è una pausa per aggiornare chi viaggia. Leggo un altro messaggio al 349-238-6666 sul referendum della Scozia per l'indipendenza. Forza Scozia indipendente, speriamo che le scimmie ammaestrate italiane prendano esempio, non possiamo lasciare il paese, dice questo ascoltatore, in mano ai burattini massoni. Se volete potete continuare anche sulla pagina Facebook di Effetto Note a scrivere i messaggi, poi cominceremo a entrare dentro ad alcuni temi in vista di oggi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, prima di affrontare il primo tema, argomento di questa sera, vi ricordo brevemente quali sono i fatti in primo piano di oggi. Via libera al Jobs Act in commissione, ma il PD è spaccato, intanto c'è un'accelerazione sulla legge elettorale. Il Fondo Monetario Internazionale dice che l'agenda di Renzi è ambiziosa, ma è allarme prodotto interno lordo e debito. Bisogna intervenire, dice il Fondo Monetario Internazionale, sulle pensioni. C'è la Scozia che vota sull'indipendenza, l'Europa intanto è col fiato sospeso, testa a testa per il momento fra i sì e no, poi lo scopriremo soltanto però domani mattina. E per Expo Acerbo si dimette da commissario delegato, cantone c'è una scelta provvisoria, non commissariamo gli appalti. E poi per l'ISIS c'è l'ok del Pentagono al piano per i raid sulla Siria. Per il calcio avete sentito il debutto di Inter e Torino, che hanno già giocato in Europa League. Il Torino ha battuto il Dnipro 0-1, Torino ha pareggiato con Bruges 0-0, e poi vediamo che cosa combinano Napoli e Fiorentina. Il primo tema di oggi, come ieri, visto che è estremamente dibattuto, estremamente caldo, è la riforma del mercato del lavoro, sulla quale, sapete, il governo sta accelerando, come avete potuto però dedurre in questi giorni, crea decisamente un terreno di scontro che, al di là delle opposizioni, dei sindacati che hanno annunciato possibili scioperi, scatena proprio delle divisioni all'interno del PD, delle vere spaccature profonde. Oggi c'è da dire che il Jobs Act è stato approvato in Commissione Lavoro al Senato e l'approdo in aula è previsto per settimana prossima, ma su questo testo i giudizi critici della sinistra PD si fanno sentire molto forte, sinistra PD che è contraria alla modifica dello Statuto dei Lavoratori. Il ministro del Lavoro Poletti ha annunciato che il governo non farà alcuna correzione a questo emendamento che tanto ha fatto arrabbiare la sinistra del PD, le opposizioni, l'emendamento al disegno di legge delega sul lavoro, dove tra le altre cose si introduce un contratto a tempo indeterminato ma a tutele crescenti per i nuovi assunti, che sembrerebbe appunto superare lo statuto dei lavoratori e il famoso articolo 18, quello che prevede il reintegro se un lavoratore o una lavoratrice sono stati licenziati senza giusta causa. Allora Gianni Cupero, parliamo della sinistra del PD, Cupero, lo sfidante di Renzi, ricordate le ultime prime e punto di riferimento della sinistra PD, critica il governo, dice: se gli innovatori sono la destra che pensa di uscire dalla crisi riducendo i diritti e la dignità di chi lavora, io penso sia giusto stare dall'altra parte. Naturalmente si è fatto sentire anche l'ex segretario del PD Pierluigi Bersani, che ha detto che è assolutamente indispensabile che il governo chiarisca, dice, quali sono i contenuti precisi, perché l'emendamento che è stato presentato, dice Bersani, sulla carta lascia aperta qualsiasi interpretazione. E farei sentire anche al presidente del PD, che è in collegamento in questo momento e che ringrazio di essere qui, Matteo Orfini, buonasera. Buonasera, buonasera. Se lei ha ancora un secondo di pazienza, le farei sentire anche che cosa ha detto Stefano Fassina su questo emendamento e su questo dibattito così acceso all'interno del PD. L'emendamento del governo mantiene tutte le forme contrattuali precari, cancella l'ipotesi di reintegro anche in casi gravissimi di assenza di motivi per un licenziamento, di motivi economici giustificabili per licenziamento, e quindi non tradisce quello che era il programma sul quale siamo stati eletti. Lei, Matteo Orfini, ha scritto via Twitter: i titoli del Jobs Act sono condivisibili, lo svolgimento meno. Questo svolgimento che convince meno collima la sua, i suoi giudizi critici con quelli, per esempio, di Fassina, che diceva che è piuttosto grave questa modifica dello statuto dei lavoratori? Non del tutto, nel senso che io credo che siamo ancora in una fase in cui c'è tempo di discutere. Noi abbiamo tra qualche giorno una direzione del Partito Democratico con Renzi e con Poletti, in cui discuteremo nel Partito Democratico del Jobs Act e quindi evidentemente ragioneremo anche sulle modifiche che secondo me ne sono necessarie. Quando dico che i titoli sono buoni, penso che l'obiettivo di estendere le tutele sia un obiettivo evidentemente condivisibile, come lo è quello di rendere universali gli ammortizzatori sociali, come lo è quello di conciliare meglio i tempi del lavoro e della vita, che sono poi i pilastri del Jobs Act. Poi chiaro che vedo anch'io emendamenti come quello che il governo ha presentato ieri che rischiano di andare in una direzione assolutamente opposta. Oggi il ministro Poletti ha chiarito, ed è un passo avanti, che il licenziamento per motivi discriminatori continuerà a prevedere il reintegro, quindi una delle obiezioni che faceva Stefano e che abbiamo sentito adesso cade per fortuna, perché credo sia sacrosanto che se un lavoratore viene licenziato per motivi discriminatori abbia diritto a essere reintegrato e non solo indennizzato. Dopodiché io credo che appunto ha senso invece l'obiezione che fa Fassina nel momento in cui chiede che venga disboscata la giungla dei contratti precari, cioè io credo che noi dobbiamo andare in una direzione in cui esistono i contratti a tempo determinato, esistono i contratti a tempo indeterminato, ma non esiste altro, cioè in cui ci deve essere chiarezza sulle modalità con cui si viene assunti, diritti legati a quelle modalità e poi basta, cioè deve finire la giungla dei contratti precari, dei contratti a progetto, delle decine di forme con cui in questo paese si può essere assunti. Perché questo è lo spirito iniziale con cui il governo aveva presentato il Jobs Act e quello che ripetutamente Renzi ha dichiarato anche l'altro giorno nel suo discorso sui 1000 giorni in Parlamento. Credo sia sbagliato inserire, come è stato fatto al Senato, elementi come la previsione del demansionamento oppure il controllo a distanza dei lavoratori, perché diciamo indeboliscono il mondo del lavoro e diciamo sono ingiusti e ingiustificabili dal mio punto di vista. Mi piacerebbe che si facesse qualcosa di diverso, ad esempio inserire nella delega la legge sulle dimissioni in bianco che noi abbiamo approvato alla Camera e che Sacconi ha bloccato al Senato. Ecco, quello, se proprio vogliamo andare nella direzione dichiarata, sarebbe una cosa da inserire invece di metterci il demansionamento. Insomma, io credo che ci sono margini di discussione, però se gli obiettivi sono quelli che il governo ha dichiarato, noi possiamo trovare un accordo largo intorno a quegli obiettivi. Naturalmente bisogna fare qualche cambiamento al testo che finora è stato discusso al Senato, e su una cosa ha ragione Bersani: visto che è una legge delega, bisogna che il governo sia chiaro su cosa poi scriverà nella delega. Secondo lei in quali tempi il governo riuscirà a essere chiaro su quello che scriverà nella delega, e quindi poi quando è che riuscirete a trovare una sintesi? Ma io credo che noi dobbiamo fare in fretta, su questa ragione il governo, ha ragione Renzi, la situazione del mondo del lavoro è talmente grave che dare risposta a problemi di questa natura è obiettivamente urgente, sarebbe assurdo farlo per decreto, ma dare tempi certi alla discussione parlamentare e poi all'applicazione e all'emanazione dei decreti della delega credo sia un obiettivo che possiamo condividere, sul quale possiamo assumere tutti degli impegni. Quindi la sento ottimista, Orfini, sulla possibilità di trovare delle soluzioni, di introdurre qualche modifica, delle cose diciamo più indigeste alla sinistra del PD? Io credo di sì, nel senso che io ho il dovere e voglio fidarmi del mio governo, del mio Presidente del Consiglio e del mio Ministro del Lavoro, che hanno dichiarato chiaramente quello che vogliono fare. Poi ci sta che ci siano degli errori o che ci siano dei compromessi, però ecco, quello che è stato raggiunto fino a qui non è un compromesso adeguato e quindi penso si possa lavorare per cambiarlo. Eviterei di iniziare questa discussione con le scomuniche preventive dell'uno e dell'altro fronte, cercando di strumentalizzare una discussione difficile come questa per posizionamento interno nel dibattito del Partito Democratico. Lavoriamo tutti insieme per trovare una soluzione e ce la faremo. Matteo Orfini, se poi la CGIL con la Camusso dovesse andare in piazza, visto che hanno annunciato possibili scioperi, lei che farà? Che devo fare? vedrò al telegiornale come è andata la manifestazione. È del tutto legittimo che i sindacati manifestino il loro dissenso, l'hanno sempre fatto, ed è del tutto legittimo che lo facciano con ogni governo. Naturalmente in alcuni casi hanno ragione, in altri hanno torto. Io credo che manifestare prima, diciamo annunciare scioperi prima che ci sia un testo definitivo sarebbe un errore. Credo che ci si deve dare il tempo al Parlamento di fare questa discussione, poi il sindacato ha il diritto di valutare nel merito quello che avremo fatto, però io spero che diciamo esca un testo che anche i sindacati potranno riconoscere come un'estensione delle tutele per i lavoratori e non come una riduzione. Orfini, faccio un'ultima domanda così a margine di una notizia di oggi del padre di Renzi indagato a Genova per bancarotta fraudolenta. Che cosa pensa di questa cosa? Ma non penso nulla, nel senso che non conosco la vicenda, non conosco il padre di Renzi, non so nulla, ho letto l'agenzia, ho preso la notizia, ma insomma mi sembra diciamo un fatto che non ha una rilevanza politica. Io la ringrazio molto Matteo Orfini, buon lavoro. Allora vediamo un po' quale sarà l'esito di questa possibile mediazione sulla riforma del mercato del lavoro. Grazie a voi. E buon lavoro allora, grazie. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, stavo guardando intanto i vostri messaggi prima di riassumervi tra poco le notizie principali. A proposito di Scozia, Max scrive: trovano il petrolio e chiedono l'indipendenza, bella forza, quella dell'egoismo che nella storia dei popoli non ha mai prodotto nulla di buono per nessuno. I popoli europei sono in una brutta china, in realtà onor del vero, come vi dicevo, c'è un fiero passato di guerre per l'indipendenza della Scozia, perennemente in lotta contro quella che ha sempre ritenuto l'Inghilterra usurpatrice. Questo lo dico al di là di essere d'accordo o meno, a me piacerebbe che restassero uniti Scozia e Gran Bretagna, però vedremo. Poi invece un altro messaggio: speriamo però che il referendum metta in crisi lo stolto modello liberistico britannico, soprattutto nella sanità, per la quale gli inglesi hanno preso precisi impegni, mi pare. Ancora un altro messaggio: Franco, oltre a sentire la minoranza del PD, questo invece rispetto a Orfini, presidente del PD, che abbiamo sentito poco fa effetto notte, dice: oltre a sentire lui che comunque è responsabile della riforma Fornero, cioè il PD, dovreste dare molto più spazio, dice a sé il preto della Rifondazione Comunista, da sempre schierate a favore dei lavoratori ma prive di spazi mediatici. E poi molti altri messaggi che leggerò semmai dopo. Adesso vi ricordo i fatti principali e poi tra poco c'è Stefano Folli. La lotta all'ISIS, agli integralisti islamici dell'ISIS, c'è l'ok del Pentagono al piano per i raid sulla Siria, manca solo il via libera di Obama. Scozia, il paese alle urne, l'Europa che teme il contagio, intanto c'è stato un arresto in un seggio per aggressione. La riforma del lavoro, c'è il primo via libera al Jobs Act in commissione, Forza Italia si astiene, il PD vota sì ma si spacca. Crisi, il Fondo Monetario Internazionale dice che l'agenda di Renzi è ambiziosa ma bisogna intervenire, afferma, sulle pensioni. Expo, dimissioni a metà per Acerbo, che resta però responsabile del padiglione Italia. E poi per il calcio siamo in attesa tra pochissimo di capire che come procedono in Europa League Napoli e Fiorentina, mentre l'Inter ha battuto 0-1 il Dnipro e il Torino ha pareggiato 0-0 con il Brugge. Caro Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, ben ritrovato Stefano. Grazie, ciao, come stai? Non so se hai avuto modo prima di sentire un po' Orfini, ma ti faccio sentire magari qualche passaggio tagliato così al volo. Però c'è tanta carne sulla brace, insomma. Jobs Act, abbiamo detto che con Orfini e la parte sinistra del PD molto critica, anche se Orfini diciamo, diceva ci sono buoni margini per trovare una mediazione, però intanto ci sono grosse turbolenze nel Partito Democratico. Renzi, che aveva evocato giorni fa, quando ha presentato lunedì, se non sbaglio, i 1000 giorni del suo governo, ha evocato le elezioni anticipate, poi però c'è stato l'incontro con Berlusconi nel quale ha dato garanzie che non ci saranno queste elezioni, c'è l'accelerazione nel frattempo sulla legge elettorale, c'è lo stallo invece sulle votazioni del Parlamento sul CSM e Consulta. Poi incominciano molti a fare bilanci sulla concretezza di Renzi, a proposito degli annunci dicono quanti fatti poi sono stati realizzati. Insomma, da dove partiresti tu Stefano in questo momento così febbrile? O di stallo, insomma, si può partire sicuramente anche dalla riforma del lavoro, che è comunque un impegno, a proposito del fatto che Renzi parla soltanto, no, fa solo degli annunci, questo è un punto su cui sta cercando di mettere in pratica quello che ha annunciato, e il fatto che ci siano delle tensioni nel Partito Democratico non mi stupisce, perché è un partito che ha una tradizione, una storia nella sinistra, e quindi è anche comprensibile che da un lato abbiamo Renzi che vuole interpretare un dinamismo che rompe anche vecchi schemi, anche su questo terreno, e dall'altra parte non è strano che ci sia una componente del partito che cerca di essere ancorata a una tradizione, appunto, anche se io credo che più che altro si tratta di cercare qualche accomodamento, credo che si vogliano semplicemente introdurre alcuni emendamenti per salvare un po' il senso politico di un'area che oggi è in minoranza nel partito di Renzi. Adesso ti faccio sentire questo passaggio di Orfini di poco fa, che dice, appunto, lui è ottimista sul fatto che poi si possa trovare una sintesi, dice non infieriamo prima che ci sia un documento scritto nero su bianco, anche per quanto riguarda i sindacati che minacciano scioperi, dice però sarebbe assurdo un decreto sul lavoro, sentiamo. Ma io credo che noi dobbiamo fare in fretta, su questa ragione il governo, ragione Renzi, la situazione del mondo del lavoro è talmente grave che dare risposta a problemi di questa natura è obiettivamente urgente, sarebbe assurdo farlo per decreto, ma dare tempi certi alla discussione parlamentare e poi all'applicazione e all'emanazione dei decreti della delega credo sia un obiettivo che possiamo condividere e sul quale possiamo assumere tutti degli impegni. Quindi adesso, diciamo, Orfini preferisce una linea di mediazione, anche se forse si può dire, Stefano Folli, che probabilmente per diciamo la temperie così di crisi profonda dell'Italia in particolare, ma insomma globale, questi passaggi che si stanno facendo sul mercato del lavoro sono forse inevitabili, ma sono comunque un passo indietro per quanto riguarda i diritti legati al lavoro? Ma io penso proprio di no, io spero che siano un modo più innovativo, più moderno di interpretare le esigenze di un paese in cui certe vecchie ingessature non sono più neanche una tutela dei lavoratori, insomma abbiamo un indice di disoccupazione altissimo e forse ci vuole un po' di fantasia e anche, diciamo, il coraggio di intraprendere strade nuove se si vogliono creare nuove opportunità di lavoro. Piuttosto che restare ancorati a degli schemi rigidi che forse rispecchiavano una società che oggi non esiste più. D'altra parte, che Orfini si preoccupi di una mediazione, giustamente, che tenga conto anche delle obiezioni, in qualche caso anche fondate, della sinistra del Partito Democratico, che è il partito di maggioranza relativa, non mi stupisce. D'altra parte, è il presidente del partito, questa è la sua funzione. Senti, a proposito invece dell'ala sinistra del PD, dei rapporti dell'ala sinistra del PD e CGL, ti faccio sentire giusto quest'ultimo passaggio di Orfini poco fa, effetto notte. Che devo fare? Vedrò al telegiornale come è andata la manifestazione. È del tutto legittimo che i sindacati manifestino il loro dissenso, l'hanno sempre fatto, ed è del tutto legittimo che lo facciano con ogni governo. Naturalmente in alcuni casi hanno ragione, in altri hanno torto. Io credo che manifestare prima, diciamo annunciare scioperi prima che ci sia un testo definitivo sarebbe un errore, credo che ci si deve dare il tempo al Parlamento di fare questa discussione, poi il sindacato ha il diritto di valutare nel merito quello che avremo fatto, però io spero che, diciamo, esca un testo che anche i sindacati potranno riconoscere come un'estensione delle tutele per i lavoratori e non come una riduzione. Quindi Stefano, hai sentito Orfini dice se ci sarà una manifestazione della CGL la guarderò in televisione per vedere come va. Non ho capito, è andata via la voce, poi hai detto? Diceva Orfini, a proposito dei rapporti tra la sinistra del PD e CGL, almeno per quanto dice Orfini, io avevo chiesto se la CGL dovesse andare in piazza, che farà? Orfini ha detto la guarderò alla televisione. Ma sì, ma ho molto da aggiungere a quello che ha detto Orfini, mi sembra una parola di buon senso, francamente. Oggi la situazione è tale per cui tutti, compresi i sindacati, evidentemente hanno un po' il dovere di modificare i vecchi comportamenti. Ma rispetto alla maggioranza che sostiene Renzi, adesso anche all'interno del suo partito con la direzione per formato una nuova segreteria, no, giorni fa, includendo anche alcuni esponenti delle correnti minoritarie di Cuperlo, di Bersani, e rispetto anche al resto della sua maggioranza, insomma, secondo te ha buone possibilità di essere longevo questo governo, di concretizzare gli annunci fatti? Io non vedo una minaccia che viene dall'interno del Partito Democratico, appunto, tale da rovesciare il governo, francamente. Vedo la possibilità che ci siano delle fibrillazioni, che ci siano anche, magari un po' di guerriglia parlamentare. Indubbiamente la vicenda amara e irrisolta dei due non depone bene per il futuro. Dei due non si è sentito, Stefano? Non si è sentito questa parte? Che sì. la vicenda dei due giudici della Corte Costituzionale, sì, che non vengono eletti, non depone bene per il futuro, dà il senso di un malessere in Parlamento che esiste, che ha molte cause e non è una sola. Io non vedo però una rivolta del Partito Democratico contro Renzi in questo momento, francamente. E d'altra parte Renzi vuole la legge elettorale il più presto possibile, perché intende usarla anche come arma di pressione per i parlamentari che naturalmente non gradirebbero un anticipo elettorale. Dovrebbe essere in Senato la prossima settimana la legge elettorale, Italicum un po' rivisto. Sì, questo è l'accordo di ieri con Berlusconi, è questo. A me non piace molto questa legge elettorale, però i correttivi introdotti, che sono sulla via di essere introdotti, la migliorano indubbiamente. Certo, tutta questa fretta ad avere la legge elettorale fa un po' a pugni con l'idea che la legislatura arriverà fino al 2018. Ecco, Renzi lo ripete un po' troppo spesso per renderci tranquilli sul fatto che sia poi la verità. Io credo che lui voglia una legge elettorale in grado di, appunto, essere usata come strumento di pressione sui parlamentari, e poi cercherà di scegliere il momento più propizio per andare a votare. Non dico presto, magari anche più avanti, dipenderà da molte circostanze. Ti vuole creare anche un'assicurazione, insomma, da mettere nel cassetto. Senti, l'ultima cosa, Stefano Folli, il nuovo centrodestra in questo momento che peso ha? Ma insomma, il fatto che Berlusconi continui a essere un interlocutore di Renzi lo rende veramente ancora influente, però questa influenza a che cosa si riduce? Sulla legge elettorale, d'accordo, abbiamo visto che funziona il patto, sulla elezione dei giudici costituzionali, che pure è un'elezione importante perché riguarda un aspetto di sistema, come si dice, no? Un aspetto istituzionale che fa funzionare complessivamente il nostro sistema, e lì vediamo che non c'è patto che tenga, a quanto pare. Quindi questo patto va momento per momento, e il centrodestra indubbiamente è all'anno zero, ha bisogno di essere ricostruito da e questa operazione richiederà tempo. Ecco, oggi il centrodestra sicuramente non è pronto per le elezioni anticipate, quando mai ci o qualora mai ci fossero. Renzi si considera invece sicuramente più preparato per l'evenienza. Grazie Stefano Folli, a presto. Ciao Stefano. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Per i vostri messaggi sempre il 349-238-6666, e poi sapete, quando volete, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso vedo una notizia che riguarda l'OMS, che dice: a proposito di Ebola, è crisi umanitaria, sociale ed economica. E poi per l'ISIS c'è la decisione, insomma, del Pentagono, il progetto del Pentagono per il momento, di fare dei raid sulla Siria, deve arrivare ancora il via libera di Obama. E poi per la riforma del lavoro, ne abbiamo parlato diffusamente questa sera, c'è il primo via libera al Jobs Act in commissione, Forza Italia si è astenuta, il PD ha votato sì ma si è spaccato. E poi il padre di Renzi indagato per bancarotta fraudolenta, indagine a Genova sulla sua agenzia di distribuzione di giornali, ma lui dice: sono tranquillo, poi ci aggiorneremo sulle partite. Ma adesso l'Europa. Europa 24 notte. Un'Europa che potrebbe disunirsi, abbiamo detto, a proposito della Scozia, che c'è il vecchio continente che attende col fiato sospeso di capire quale sarà l'esito di questo voto sull'eventuale indipendenza della Scozia. Leonardo Maisano, rieccoci, inviato del Sole 24 Ore in Gran Bretagna. Ciao Leonardo. Ciao a voi. Prima abbiamo fatto sentire un breve passaggio di Braveheart, il film famoso con Mel Gibson che interpretava l'eroe dell'indipendenza scozzese William Wallace. C'è ancora questo spirito, anche certo rimasto nella tradizione culturale, sociale della Scozia, ci sono però in mezzo anche interessi economici, si è tanto parlato del petrolio, no? in questo periodo, però si diceva che anche se dovessero vincere, no, un certo costo lo pagherà la Gran Bretagna, perché ha fatto negli ultimi giorni grosse promesse per evitare questo strappo. Assolutamente sì, quello che si dice di questo voto è che si vota con la testa o con il cuore, no? E diciamo che in una certa misura la divisione è proprio lungo queste linee, è un paese diviso a metà, perché i sondaggi dicono tutti, con dei margini comunque ridotti, che è un testa a testa, anche se il vantaggio in queste ultime ore è a favore del no per qualche punto in percentuale, ma comunque entro il margine di errore della statistica. Non c'è dubbio che chi si batte per il sì fa un ragionamento largamente emotivo, il no è un ragionamento molto più basato sui fatti e sulla realtà di un contesto economico in questo momento florido. Ecco, questo volevo chiedere, gli scozzesi stanno bene? In questo momento la Scozia sta bene, soprattutto le città, cioè Edimburgo e anche Glasgow, nonostante abbiano poi comunque delle differenze sociali violente, cioè, ci sono zone di Glasgow che sono fra le più povere, anzi probabilmente le più povere del Regno Unito, con un indice di vita molto, molto più basso rispetto alla media del paese. Questo è un'indicazione comunque di una società per certi versi slabbrata, ma in linea di massima è un'area in cui sta bene, anche perché in Scozia i trasferimenti dello Stato sociale sono mediamente più cari del 20-30% rispetto al resto dell'Inghilterra, cioè uno scozzese ha benefit del 20-25% superiori a quelli di un inglese. E questo rientra nelle logiche autonome e nell'ampia autonomia di cui questa parte del regno ha sempre goduto, ed è il motivo per il quale non si è capito perché si sia arrivati in realtà fino a questo punto. È stato un errore politico di Cameron, profondo. In realtà. Nel senso che Cameron avrebbe potuto promettere delle agevolazioni molto prima. Cameron avrebbe potuto dare una terza opzione. Volete l'indipendenza? Volete maggiore autonomia? O vi va bene stare come state? Cioè, poteva dare una terza opzione, non ha voluto, ha voluto una consultazione secca, ritrovandosi poi nella condizione, a una settimana dal voto, quando i sondaggi non andavano in una direzione assolutamente inattesa per lui, a dover fare marcia indietro e a promettere di fatto quello che aveva negato prima. Quindi possiamo dire che anche se dovessero vincere i no all'indipendenza, è comunque una vittoria di chi ha voluto il referendum, perché sarà riuscito a ottenere una serie di cose, no? Che dovranno essere poi una vittoria per la Scozia in assoluto, sì, certo, una vittoria per la Scozia in assoluto. Oggi c'è un italiano, tu mi parlavi prima dell'atmosfera davanti ai seggi, sì. Contratto una ricercatrice informatica italiana che vive qui da 10 anni, di Milano, che ha votato sì e che mi ha spiegato che il suo è un voto strategico, cioè che sapeva che avrebbe vinto il no, ma riteneva importante alzare al massimo la pressione per ottenere il massimo dell'indipendenza. Gioco peraltro molto pericoloso, perché se lo fanno una frazione in più di quelli che si immagina, finisce ad andare dall'altra parte, e allora il quadro è molto più complesso. Perché? Molto che cosa succederebbe a svantaggio della Scozia, tu stai dicendo, quindi a svantaggio della Scozia? Molto più complesso, perché anche innanzitutto la Scozia non si sa che moneta avrà, quindi voglio dire, già, quello è un punto interrogativo notevole, e di fronte a questa incertezza gran parte della, tra virgolette, ricchezza di questa parte del Regno Unito si trasferisce a sud, cioè i grandi fondi di investimento, i grandi trust, le grandi più o meno banche, perché Royal Bank of Scotland ormai non è più grande, particolarmente grande, ed è interamente controllata dal tesoro inglese, comunque grandi operazioni qui, hanno già detto che loro trasferiranno a sud, dove c'è una banca centrale che è, come dire, un prestatore d'ultima istanza e quindi garantisce come dire, garantisce il sistema bancario e i correntisti. Di qua cosa succede non si sa. Niente, dobbiamo soltanto aspettare domani mattina e capire che cosa succederà poi in base a un voto o l'altro, anche se è più facile, però chissà gli imprevisti, più facile che vinca il no, ma staremo a vedere. Grazie Leonardo Maisano, a domani allora. Grazie a voi, ciao Leonardo. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Bene, giusto il tempo di... non ci sono aggiornamenti, li sentiamo dopo delle squadre, di salutarvi per ritrovarci proprio tra poco.